24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Sto insultando Letta se gli dico vai Enrico, ti diamo una mano, parti. Il governo Letta Alfano è come una bici, sta in piedi se corre. Se sta fermo, non sta in piedi, ma non perché lo butta giù Renzi, perché non sta in piedi il governo. E tutti voi la pensate così. Questo è Matteo Renzi con la sua metafora della bicicletta. Il governo sta in piedi, se come una bicicletta corre, altrimenti cade. Ah, quanta differenza tra quello che succede in Germania e l'Italia. Tutti i giornali oggi si esercitano in questo, con la domanda chiave. E noi un'Angela Merkel non ce l'abbiamo? Noi un'Angela Merkel non l'abbiamo? Questo si chiedono i giornali oggi. Sono le 6:34 minuti. Benvenuti a 24 mattino con Miriam Lucchetti in redazione, con il nostro alpino Peter Bescapè sempre lì in regia. Siamo qui fino alle 9, se volete mandarci un messaggio 349-238-6666. Si apre il Parlamento, evviva! Siamo pronti. Basta! Basta! Basta! Un'irruzione clamorosa nel nostro Parlamento dell'aprile la saracinesca. Il caffè volentieri a tutti quanti. Grande Oscar Giannino. Evviva, anche a lui offre il caffè Nicole Minetti. Voglio salutare Alessandro Giglioli, piovono rane dell'Espresso. Piovono rane è il blog e l'Espresso è il giornale, quello che ti dà lo stipendio. Buongiorno a tutti. Diciamo la verità. Giglioli, ti presento il nostro grandissimo commentatore, non so da dove nel mondo, ma glielo chiedo subito, Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia. Buongiorno Forchielli. Ciao Lino. Come va? Dove ci troviamo? Bene, sono a Hong Kong. A Hong Kong, Hong Kong. Allora la domanda è questa, pare che la Merkel abbia detto questa dichiarazione: e ora amici italiani fare compiti di casa, ya. Alberto Forchielli, potrebbe essere questa una traduzione. Che succede? Che succede adesso con la Merkel a noi italiani? Come prima. Ossia, fate i vostri compiti, effettivamente, mettetevi a posto, sappiate anche voi fare i sacrifici che abbiamo fatto noi, e dopodiché ne parliamo. Ne parliamo. Non esiste il discorso dell'euro, del poter aiutare i paesi in difficoltà, non è mai stato un tema elettorale, è una questione molto bipartisan in Germania, non esiste, anzi il rischio era che il partito anti-euro superasse la soglia del 5%. E invece non d'altro ce l'ha fatto. Capito? D'altro canto, come non dà ragione ai tedeschi? Loro hanno riformato il welfare, hanno riformato il lavoro, hanno riformato la disoccupazione, hanno fatto le riforme, le ristrutturazioni industriali, noi no. Cioè, per cui anche loro giustamente dicono, perché dovrei dare i soldi. No, no, ma infatti io dico sempre, andate in qualche canto, in qualche land tedesco a chiedere dei soldi perché bisogna aiutare i poveri statali della Grecia. Andate, provate a chiedere, vedete che cosa rispondono, ma ogni cosa dal proprio punto di vista ha un proprio significato. Comunque, loro hanno la Merkel e noi abbiamo, ecco lo so, il paragone impietoso, e noi abbiamo... Che nel momento che io ho chiesto al timoniere di mettere il timone a sinistra, dice a sinistra e 20 a sinistra, in quel momento la nave aveva un'accelerazione angolare verso destra e l'errore di non mettere a sinistra, cioè il ritardo è la conseguenza dell'errore. Cioè perché, Giglioli, mi sono svegliato stamattina e c'avevo mal di spalla, colpa di quel gran mascalzone del timoniere. Schettino, che testimonio, Giglioli, Schettino noi abbiamo. Basta, Schettini. Ma sembrava un po' una supercazzola per uno che non... Sì, non si capiva niente, non riusciva neanche a spiegare. Sicuramente era un discorso di grande competenza, però la velocità con cui l'ha espresso e i termini iniziati ci facevano sembrare a noi una grandissima supercazzola. Sì, sì. Sicuramente ha fatto bene. Tutto perfetto, infatti non si è schiantato. La questione è più seria. Giglioli, anche il tuo parere sulla Merkel. Cioè, tutti i giornali oggi, il Fatto Quotidiano si interroga così: e noi una Merkel non ce l'abbiamo? Oppure servirebbe anche qui una Merkel? Adesso c'è il mito, no, di Angela Merkel. Giglioli. Ma c'è il mito, poi vedremo come la giudicherò la storia. Il problema, secondo me, non è tanto la Merkel in sé, quanto se posso dire la mia opinione, quanto proprio una classe dirigente. Cioè, noi abbiamo l'impressione che le classi dirigenti della politica che arrivano negli altri paesi siano tendenzialmente un po' più serie delle nostre, questa impressione, che siano di destra o di sinistra, no? E questa impressione non è infondata. Cioè, il problema nostro è che la Prima Repubblica aveva espresso delle personalità abbastanza, no, se pensi, non è che De Gasperi avesse qualcosa di meno della Merkel o anche Nenni, o se preferisci Togliatti. Sono le classi dirigenti della Seconda Repubblica che sono scarse. No, infatti, quell'attimino. Guarda, di tutta la Seconda Repubblica, l'unico partito che sembrava aver allevato una classe dirigente giovanile preparata sul territorio sembrava essere la Lega, e lo dico da antileghista. Poi invece anche lì si è visto che è poca roba. Forchielli è quell'attimino la classe dirigente italiana da quel paese. Forchielli è uno di quelli che è andato giù con i giudizi pesanti. È quell'attimino di serietà in meno che sembriamo dare come classe dirigente, no, Forchielli? Beh sì, ma questa è una roba che viene da lontano. In parte si è compromessa col fascismo, poi con la fuga a pescare del re, quel po' di monarchia che c'era ha perso dignità, per cui la classe dirigente italiana si è ridotta, diciamo, di impostazione laica, si è ridotta a quel 2-3% che pigliavano i repubblicani e i liberali dopo. Poi c'era quella di impostazione cattolica che era un personaggio. Che è quella al potere, quella al potere. Sì, però dopo naturalmente il potere logora, come tutti sappiamo. Però la prima generazione della Democrazia Cristiana erano persone molto serie, sia De Gasperi, quella gente lì, gente molto seria. Cioè, la Merkel non ha il carisma, ma la Merkel non ha neanche il carisma dei suoi predecessori, non ha il carisma di Adenauer, non ha il carisma di uno Schmidt, non ha il carisma di un Brandt, non ha il carisma di un Kohl. Solo che con quali si tratta? Cioè, però so. Di verde acido non si rende simpatica. Sicuramente se i tedeschi avessero un leader anziché una signora piena di opportunismo politico, sarebbero più amati e avrebbero più spazio. Questo è, però con questi dobbiamo trattare. Esatto, cioè, probabilmente seguiremmo più volentieri le loro ricette se ci fosse il vecchio Kohl, che mangiava sempre a doppia razione anche al G8, capito? Forse il vecchio Kohl con la sua manatona ci avrebbe entusiasmato. Un po' di più, però con questi dobbiamo fare i conti. Cioè, non so, Forchielli, se lo vede Enrico Letta che va da Angela Merkel, cosa... com'è che l'aveva definito il bundaniere? Cioè, ha fatto anche lezione prima di andare, ma cosa vuoi, capito? Sono già sputtanato. Andato lì, teniamo... tutto, adesso già sbarellati. In realtà poi di chi si fidano? Si fidano di Saccomanni, perché Saccomanni lo conosco da 20 anni, quando ero io alla Banca Europea, la Banca Europea degli Investimenti, nei primi anni 2000, Saccomanni era già una personalità, parlo di 13-15 anni fa, capito? Saccomanni è sempre andato in giro con la Banca d'Italia, ha fatto i G8, ha fatto i riunioni del fondo. Letta è un bamboccio della politica. Un bamboccio? Cioè, si accomandi, difatti, come del resto si era già detto, non sembra le voglia di bruciarsi 40 anni di credibilità per l'abbiamo detto la scorsa settimana, infatti. Adesso mi fai parlare, Lino. Sì. Oh, cazzo, interrompi sempre, fammi vedere cose. Oh. No, Forchielli. Basta, cazzo, allora non parlo più. Allora, la stabilità politica è sinonimo di spesa. Come tu senti che c'è stabilità politica, vuol dire che muovono i cordoni della borsa. Sei d'accordo per spendere. Su questo, capito? Tutte le volte che dice stabilità politica, Letta, vuol dire che spenderanno di più. Ah, ecco, stabilità politica. Posso chiedere un parere anche a Giglioli, Forchielli? Adesso vai. Adesso vai. Mi hai interrotto, mi hai fatto incazzare, vai. Va bene, Giglioli, è così. No, e non interromperlo, Giglioli. Ho paura anche a distanza di 10.000 chilometri. Parte da Hong Kong, arriva per menarti. Stabilità vuol dire più spesa, questo dice. Stabilità vuol dire più spesa, ma mi sembra un po'... No, quando dicono siamo stabili, vuol dire spendiamo di più. Ecco, questo se si riferisce alla situazione italiana e all'ipocrisia delle parole italiane, posso essere d'accordo. Se si riferisce in generale a una dinamica economico-politica mi sembra un po' così approssimativa, se posso dirlo. Però il problema del governo Letta non mi sembra tanto questa grandissima voglia di spendere, quanto questa, come dire, grandissima ipocrisia di fondo che c'è, per cui lui fa finta di essere l'uomo più dinamico del mondo, quando sa benissimo che adesso ha di fronte, avanti a 6, 2, 3 mesi, in cui il divertimento maggiore del suo azionista di minoranza, ma potentissimo, cioè Berlusconi, sarà logorarlo per farlo cadere, per farlo cadere quando vuole lui, quando gli fa comodo lui. Questa roba, anche questa roba dell'IVA, così come in precedenza l'IMU, così come poi arriveremo, poi se ci arriveremo, la legge di stabilità e così via, sono tutte, non voglio dire ali, ma tutti strumenti mediante i quali avviene questo strategico, pensato processo di logoramento. Ah no, ma non se ne può più anche questa cosa dell'IVA. Per dire, oggi sul Secolo XIX c'è scritta questa notizia: abbiamo fatto un condono tombale nel 2003, condono tombale, c'era il governo Silvio Berlusconi. Ancora gli italiani, lo Stato non ha incassato la seconda rata di questo condono tombale, che vale 4 miliardi. Per dire, eccoli lì a disposizione per scongiurare l'aumento dell'IVA, e quindi le soluzioni ci sono. Però Forchielli, perché Letta, al di là di dire la stabilità, dice le difficoltà sono dietro di noi, voglio dire? Sì, perché ce l'hai nel culo. No. Beh, l'ha detta con un giro di parole, però il concetto è abbastanza chiaro. Forchielli, vabbè, Mira, però anche tu gliele alzi. No, vabbè, ho capito, ma ci sono delle volte che bisogna parlare prevedevo quando gliel'hai detto di meno. Tu devi capire, no, sei un conduttore. No, ho capito, però insomma ha fatto questo commento dal Canada. Adesso non è che possiamo. Dal Canada, ma cosa fai? Ma hai studiato la geografia? È in Canada, Lette, in Hong Kong. Ah no, Letta dal Canada. Forchielli oggi si è arrabbiato. Letta in Canada. Letta in Canada. Capito? Tra le riprese della giacca e le difficoltà alle spalle, capito? Stati conti, che poi sono anche molto peggio di quelli che dicono, questa è la verità, perché tutte le previsioni di crescita del DPF sono saltate, pensavano di calare da 0.6, di cauda da 0.6, che gli hanno dato meno 8, per cui calano anche gli introiti. Cioè, ma è di più, secondo me, non è 3.1, non è andato dalla Merkel, è andato in Europa a garantire noi tre, poi dopo qui faceva carne di porco. Insomma, la stabilità a sto paese, cioè, in realtà la penso come Quercioli, cioè, la penso uguale, cioè, in un contesto italiano la parola stabilità assume un significato sinistro. Uguale spesa pubblica, più spesa. O più spesa, o meno ricavi, o populismo, mettiamola come volete, capito? Questo larghe intese, queste cose qui, io non... Insomma, in Germania le fanno, la grossa coalizione, ma noi no. 24 mattino. Pronto, ciao Milan. Io volevo solo dire che ci meritiamo la Germania, ci meritiamo di essere sottomessi a una nazione che ha fatto funzionare tutte le cose che sono riguardate la politica e l'economia. Noi ci meritiamo questa situazione, perché siamo un paese di cialtroni, evasori fiscali e soprattutto dissipatori dei soldi dello Stato. Grazie, ciao. Pronto, non se ne può più del suo modo di condurre la trasmissione. Lei è supponente, è scocciante, è noioso, ma insomma cambi modo di fare la conduzione. Non ne posso più, arrivederci. Milan, quando parli della Germania continui ad offendere il nord Italia, hai capito? Finiscila di parlare per te niente, d'accordo? Vieni a vedere come si lavora qui e dopo forse, hai capito, potrai parlare meglio della Germania di noi, va bene? Buongiorno a tutti. I soldi sì, si possono trovare. Si possono trovare facendo come? Io come imprenditrice, per pagare fornitori, tasse, dipendenti, mi tolgo il mio stipendio. Allora, i parlamentari dovrebbero cancellare totalmente, congelare tutti i loro stipendi, tutti i loro vitalizi, ecco che si troverebbero i soldi. Ciao Milan, mi chiamo Adamo. Posso esprimere un parere che tutti gli italiani abbiamo dentro la testa, che però magari ci abbiamo un po' paura a dirlo. Ma tutta sta politica, Lazzaro, rimandate a cagare! Vabbè, il clima è un po' quello. Mi sei oggi, Loli, qua mi sento un po' accerchiato. La gente che critica, Forchielli oggi arrabbiato da Hong Kong, che la gente che critica, la gente che si arrabbia. Va bene, accettiamo tutto. Ci sono tanti, no, Giglioli, che dici? Tanti ballotelli qua. Dico che siamo ormai al 60% di astensionismo, se andiamo avanti. Sì, così, sì, sì, abbastanza, abbastanza. Che non è un buon segnale. Vabbè, Forchielli, ci sarebbe, dobbiamo aggiornare la questione Renzi, ha sentito il governo funziona se sta in piedi. Bella però quella della bicicletta, no? Sta in piedi se fa come la bicicletta, no? Se corre. Massa. Sai, Renzi ormai è peggio delle piattole, il PD non se lo toglierà da addosso neanche col mom. Cioè, se lo tiene. Sai cos'è il mom? Sì, sai, sì. Cosa sono le piattole? Non le hai mai prese? No, le piattole dai il mom, e ormai, capito, ce l'ha lì, ormai il PD non riesce più a sbarazzarsela, ma forse è anche meglio così. Perché tanto ne abbiamo viste, abbiamo visto un circo, tanto vale che vediamo anche Renzi, no? Zio, cioè qua Giglioli, l'uomo che per molti è la speranza, il futuro del PD, per Forchielli è peggio che ma peggio. Guarda, io sono renziano, però questo establishment del PD è abbastanza patetico, dai. Prima hanno portato il PD a perdere quando aveva già vinto, poi hanno fatto quel casino inaudito del Quirinale. Poi hanno fatto le larghe intese, adesso stanno facendo di tutto per rinviare il momento del congresso, rinviare il momento della conta, si sono attaccati al governo Letta come koala, diciamo, non come piatto, che sennò poi si arriva a sentire col mom, e quindi io non posso pensare altro che non è il problema che Renzi sia attaccato come una piattola al PD, il problema è che il PD sta implodendo, poi quello che ne verrà fuori, che si chiami Renzi per un lungo periodo o per un breve periodo, oppure che succedano altre cose, compresa la possibile sparizione del PD come lo conosciamo, perché sì. Io mi sono seguito in differita, non in diretta, perché sabato avevo da fare tutte le cose del male, Giglioli. Per farmi del male, legge sì. I pareri pro veritate della legge Severino, sì, oppure si segue tutto fa del male così. Mi sono seguito un po' di interventi, un po' di lavori e anche un po' di amici che c'erano, mi sono fatto raccontare un po' come è andato, cioè lì siamo veramente no alla frutta, no al caffè, no alla mazza caffè, lì siamo già alla rissa dopo l'uscita dal pub, tutti ubriachi dal pub. Però Forchielli, qui bisogna dare una parola di speranza, cioè non è mica possibile, sai che molti si scrivono e dicono vabbè, ma critica tutto, vabbè, allora Bungasconi, come lo chiama Forchielli, niente, Renzi non va bene, il PD non va bene, Forchielli che facciamo? Cioè emigriamo tutti in Germania e votiamo la Merkel? Ma cioè, nessuno mi ha mai chiesto un programma di governo, prima perché non sono capace di farlo, secondo perché non è il mio mestiere, ci vorrebbe ben più di Parlamento per poterlo esprimere, cioè, ovviamente, se dovessi scegliere... effettivamente potrei essere in quel 60% di astensionisti, o forse meno peggio sarebbe provare Renzi, sapendo che probabilmente lo maledirò poi, però. Cioè dice un lo voto col naso chiuso, come Montanelli. Sì, può darsi, però non è che mi esprima, non è che, perché uno poi sconta tutta la difficoltà della burocrazia, tutti le lobby, gruppi di interesse, non è facile fare le cose neanche con le migliori intenzioni, non è che una classe politica poi fa schifo di per sé, poi dopo è schiava della burocrazia, è schiava degli interessi, dicono parole senza contenuto, abbassiamo il costo e gli oneri sul lavoro, ma dove li prendono i soldi, capito? Se è tutto un meccanismo, non sono capaci di maneggiare 2 punti di IMO, non sono capaci di fare una patrimoniale, non sono capaci, cioè parole al vento, capito? In realtà un po' tutti, anche gli industriali. Tutti. No, ci sarebbe da fare. Io sarei per fare, l'ho già detto varie volte, abolirei il TAR, abolirei il Consiglio di Stato. Probabilmente aumenterei l'IVA, darei una botta ai consumi per aumentare le esportazioni, per diminuire il costo del lavoro, lo tirerei da lì, ma forse è una ricetta troppo radicale. Però dice Forchielli dice voterei Renzi, il meno peggio. No, più diverso, capito? Forse, però non è detto che non sia nel 60% che non voti. Esatto, e poi per maledirlo dopo, per maledirlo dopo. Va bene, mi devo fermare qui. Grazie Alberto Forchielli, da Hong Kong, Alessandro Giglioli, è tempo di giornale radio, rientriamo subito dopo per la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:22 minuti, buongiorno cari ascoltatori, siamo pronti a leggere il giornale. Vi ricordo che oggi parleremo di una strana protesta, strana nel senso che molto agguerrita, di un commerciante calabrese che da 45 giorni, se non di più, dice non pago più lo scontrino perché lo Stato vuole il pizzo, la rivolta dello scontrino fiscale. Partiremo da qui per parlare delle tasse, dell'IVA che forse arriva, ne parleremo alle 8:15 con ospiti, avremo anche Bruno Tinti del Fatto Quotidiano, avremo anche l'onorevole Giulia Sarti del Movimento 5 Stelle, ospiti di noi, e poi basta, e poi andiamo a leggere i giornali. Questo martedì 24 settembre, intanto i titoli. Il Sole 24 Ore apre sui riflessi della vittoria di Angela Merkel in Germania. Merkel: in Europa resta la politica del rigore. Questo è il titolo di prima pagina. Così apre anche il Fatto Quotidiano. Vince la Merkel. Pagheremo caro, pagheremo tutto. Questo è il titolo. Repubblica: Napolitano blinda il governo Letta. Dunque siamo già alla politica italiana, così come sulla Stampa. Letta al PDL, patto per il 2014. Per Libero: così Renzi farà fuori Letta. Mentre il Corriere apre su Telecom, l'offerta spagnola. Avete sentito il sì dei soci italiani, dunque Telefonica sarà prima azionista di Telecom. Così anche il Messaggero: Telecom passa agli spagnoli. E anche il Secolo XIX: Telecom verso gli spagnoli. Per il Giornale: lo Stato non paga l'IVA. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre l'Unità: l'Italia non ci sta ai ricatti PDL. E invece il Manifesto: safari africano, è il titolo riguardo all'attentato che c'è stato, l'assalto terroristico in Kenya. Apre invece Avvenire con la famiglia e cuore motore del paese, la prolusione del cardinale Bagnasco. Questo è il titolo di prima pagina. Da cosa voglio partire oggi a raccontare, cari ascoltatori, i giornali? Il solito appello che voglio fare è quello di tenere le mani ben strette sul volante, perché quello che è lo spaccato della vicenda dell'arresto dell'ex presidente della regione Umbria, Maria Rita Lorenzetti, è uno spaccato che oggi offre Repubblica a pagina 19, una serie di intercettazioni da cui si evince che quello studente va promosso e il raccomandato della Lorenzetti prese 30 all'esame di patologia. Ecco, anche questo, cari ascoltatori, è uno spaccato dell'Italia. Franca Selvati ci racconta la sede di telefonate. Senti, Pischè, ti devo chiedere una cortesia. Tu una tale Romani di patologia generale la conosci? Luigina Romani, l'assistente del rettore? Come no? E perché? Che c'è? Ecco, inizia così una serie di telefonate tra Maria Rita Lorenzetti, ex presidente appunto dell'Umbria, ora arrestata, e la professoressa Gaia Grossi, ordinaria di chimica generale a Perugia e suo ex assessore alla regione Umbria. Una serie di contatti telefonici per raccomandare uno studente di odontoiatria che ha urgenza di aprire uno studio a Terni, ma teme che uno studente più danaroso di lui arrivi prima sul mercato. Allora il padre del giovane si rivolge all'ex governatrice dell'Umbria per chiedere di fargli fare un esame al più presto possibile. La professoressa Grossi afferra al volo la richiesta e chiama appunto e si mette d'accordo con la Lorenzetti. Ecco la Lorenzetti, hai capito perfettamente, Gaia mia. Noi siamo concrete, pratiche, senza tante seghe. Insomma, questa è l'ansia di chi dice: io non è che sono figlio di papà, sono uno normale che però sto più avanti di quest'altro, allora vorrei arrivare prima. E che fanno? chiamano il rettore. Il rettore, il professor Francesco Bistoni. Lo vedo domani pomeriggio, dice la professoressa Grossi all'ex governatrice Lorenzetti, perché queste cose è meglio farle di persona. Comunque si è prosternato perché gli ho detto da chi viene. A disposizione, ha risposto. E poi richiamata, dice: tutto fatto. Eccolo lì, lo spaccato dell'Italia, a disposizione, è tutto fatto, mi raccomando, noi siamo concrete. Questa qui, anche questa qui, è l'Italia, cari ascoltatori. Quello studente va promosso, il raccomandato della Lorenzetti prese 30 all'esame di patologia. Lo trovate a pagina 19 di Repubblica, sempre per rimanere in tema di scuola. Vi voglio, prima della pubblicità, raccontare questo articolo che non c'entra nulla con il tema universitario, ma c'entra con un tema annoso che abbiamo trattato anche qui a 24 mattino, cioè quello delle classi, soprattutto elementari, nelle quali ci sono tanti stranieri o più o meno stranieri. Ebbene, c'è ora uno studio commentato da Andrea Ichino sul Corriere della Sera, pagina 21. Uno studio riguarda le seconde elementari, è stato fatto e racconta il Corriere della Sera: per ogni straniero in aula gli italiani calano nei test, le ipocrisie da cancellare. Scrive Ichino: non serve né agli immigrati né ai nativi nascondere i problemi invece di sperimentare senza pregiudizi soluzioni più efficaci e rapide. Da uno studio condotto con Rosario Ballatore e Margherita Fort emerge che sostituendo un nativo con un immigrato in una classe di seconda elementare, la frazione di risposte corrette dei nativi nei test invalsi si riduce del 12% in italiano e del 7% in matematica. È sorprendente che nel nostro paese ci si debba dividere tra chi urla sconsideratamente contro l'immigrazione e chi per reazione nega o è costretto a negare un'eventualità tutt'altro che remota, cioè quando anche un solo straniero entra in una classe, l'integrazione non può avvenire immediatamente come una bacchetta magica e può avere un impatto sugli apprendimenti dei compagni. Si rischiano accuse infamanti di razzismo, suggerendo che forse non sia una buona idea gettare allo sbando gli immigrati nelle classi senza una guida specifica e che meglio sarebbe, come accade in altri paesi, disegnare percorsi diversificati di integrazione graduale da definire a seconda delle situazioni. Il risultato ipocrita di questi comportamenti è che i dirigenti scolastici, forse per amore del quieto vivere, collocano gli stranieri prevalentemente nelle classi in cui i nativi hanno famiglie meno istruite, meno abbienti. Si noti che questo accade all'interno delle singole scuole, non solo tra scuole di quartieri diversi. Lo dicono i dati ed è una sorpresa sconcertante. Insomma, in questo studio di Andrea Ichino si racconta come ogni straniero che entra in una classe di nativi italiani rallenti l'apprendimento con test invalsi, dati dunque statistici, controllabili, ma il rischio è quello delle ipocrisie. Certo, però, questo studio racconta anche che invece in quinta elementare, cioè nel giro di 3 anni, questi problemi vengono risolti. Dunque c'è un leggero arretramento iniziale di apprendimento da parte degli italiani quando arrivano gli stranieri, ma poi i problemi vengono risolti entro la quinta. Questo è la pubblicità e il meteo, e poi ripartiamo da che cosa? Dalla domanda che oggi molti giornali si pongono dopo la vittoria in Germania della CDU. E un'Angela Merkel in Italia non c'è? Non c'è? Dov'è? Ne avremmo bisogno? 24 mattino. Siamo qui allora alle 7:36 minuti, niente, i giornali italiani sono impazziti, alcuni fanno delle analisi molto approfondite, curate, serie, della comparazione tra la Germania, Angela Merkel e l'Italia, tra poco leggeremo qualcosa. Qualcuno invece lo fa in maniera un po', pensate, il Fatto Quotidiano ha messo, si chiede in maniera seria, pagina 3, ci vorrebbe una Merkel anche qui? Questa è la domanda di fondo, con tanti analisti che commentano, e poi fa un fotomontaggio in cui mette Monti, Renzi, Letta e Berlusconi con la parrucca della Merkel. Cioè, come dire, vabbè, insomma. Comunque questo è il dato di fatto. La Germania, ecco, intanto la situazione di governo qual è? Parte la ricerca dei nuovi alleati, così titola pagina 3 del Sole 24 Ore, dunque Angela Merkel, che ha vinto ma non ha avuto la maggioranza assoluta, probabilmente cercherà un appoggio della SPD, la grossa coalizione. apriamo una parentesi velocissima, lì quando fanno le grosse coalizioni è perché fanno dei patti chiari e funzionano, chiusa parentesi. La cancelliera ribadisce la linea prudente sull'Europa, la nostra politica non cambia. Alessandro Merli racconta tutta la giornata da Berlino. I paragoni. Oggi sul Sole 24 Ore c'è un editoriale del direttore Roberto Napoletano che è molto duro nel confronto anche tra Germania e Italia. Il lavoro duro da fare in casa, questo è il titolo dell'editoriale, scrive Napoletano: l'Italia ha bisogno di un governo che liberi il paese dal ricatto della burocrazia, incida pesantemente su spesa pubblica improduttiva, a partire dalle disfunzioni gravi delle regioni. Non esistono altre vie a costi zero per restituire certezze vere agli investitori. Il capitale della fiducia, per tornare a scommettere su di noi, non si ricostituisce con la mera stabilità politica. Questa deve essere capace di incidere nella carne viva dello Stato, prendere decisioni coraggiose. Non è vero che il governo Letta non ha fatto niente per sostenere la crescita, ma poi assolutamente deve riuscire a fare molto di più. Ed ecco qui che inizia l'analisi abbastanza impietosa dell'Italia. Non può essere il governo del Consiglio di Stato, dove ogni decisione si ferma o richiede tempi biblici, mentre l'economia e società soffrono come non mai. Si rimbocchino tutte le maniche, si occupino dei problemi del paese. Non ne possiamo più di out-out su IMU e IVA, vero onorevole Brunetta? Senza mai affrontare il tema urgente che è sotto gli occhi di tutti, evitare che imprese, famiglie, lo stato di salute e il lavoro delle persone finiscano in un tunnel dal quale non si può tornare a vedere la luce. Non so quanti hanno seguito davvero i lavori e il balletto quotidiano del PD, Renzi Cuperlo, Renzi Letta, Renzi Epifani. Questi comportamenti dimostrano che non c'è consapevolezza dello stato effettivo del paese. Prima che sia troppo tardi, qualcuno si prenda cura delle derive illusionistiche di Renzi e aiuti lui e gli altri a studiare i problemi reali con cognizione di causa. E il ministro dell'economia Saccomanni ha ragione a sostenere che gli italiani meritano di sapere la verità sui conti, ma la smetta di indossare abiti rinunciatari o vittimistici. Cominci dalle cose più semplici: un decreto che permetta alle banche italiane di dedurre fiscalmente le perdite sui crediti alle aziende può contribuire. Prosegua privatizzando tutto ciò che è privatizzabile, soprattutto a livello locale e immobiliare. Faccia gli esami alle regioni una a una, smontando pezzo pezzo il ricatto delle mille burocrazie che bloccano. Insomma, tutti questi esempi sono citati da Roberto Napoletano, come dire, citati Brunetta, Renzi, il PD, Saccomanni, facciano davvero le cose. Sulla stessa scia Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, in prima pagina del Corriere della Sera, il titolo dell'editoriale La prigionia dei numeri, raccontano di questo. Le ragioni per cui non riusciamo a superare la recessione sono profonde. Non troviamo il coraggio di attuare le riforme di cui discutiamo invano da almeno un paio di decenni: lavoro, burocrazia, concorrenza, una minore pressione fiscale che in tre anni invece è salita dal 46,1 al 48,9%. Enrico Letta reagisce a questi dati proponendo la solita ricetta: altre tasse e qualche artificio contabile, come l'anticipo a novembre di alcune imposte dovute l'anno prossimo. Quando si convincerà che è una ricetta che non funziona? E si chiedono Alesina e Giavazzi: spendiamo al netto di interessi, pensioni, sanità, interventi sociali 250 miliardi l'anno. Possibile che non se ne possano risparmiare 3 per evitare l'aumento dell'IVA? Che fine ha fatto il progetto fortemente sostenuto da Confindustria di tagliare i sussidi alle imprese in cambio di minori tasse sul lavoro? Sono quasi 10 miliardi l'anno, lo conferma la Ragioneria Generale dello Stato. Insomma, tutte queste cose che gli analisti, i commentatori, le persone comuni si dicono possibili, anche oggi Roberto Napoletano e Alesina Giavazzi sul Corriere della Sera, eppure, come concludono gli stessi Alesina Giavazzi, di tagli e riforme non si vede traccia. Questo è un editoriale del Corriere della Sera. Altro che serve un'Angela Merkel, verrebbe da commentare: a me servono le cose che paiono normali, concrete, sotto gli occhi di tutti. Ne volete un'altra? Oggi il Secolo XIX ha in prima pagina questa notizia che mi ha fatto sobbalzare e anche un po' arrabbiare, devo dire. C'è il condono tombale del 2003, ve lo ricordate, governo Berlusconi, condono tombale. La beffa del condono: sono a rischio 4,2 miliardi. Federico Simonelli si chiede in Prima del Secolo: che fine hanno fatto i 4,2 miliardi mancanti del condono tombale? Forse se lo dovrebbe chiedere il governo in un momento in cui la coperta troppo corta dei conti dello Stato viene tirata da una parte all'altra per tentare di rispettare gli impegni su IVA, IMU, il rifinanziamento di alcune spese. All'esecutivo servono 4 miliardi entro il 2013. Ebbene, quei 4 miliardi virtualmente, anzi 4,2, sono lì, solo che sarà molto difficile recuperarli. La storia è quella del condono tombale 2002-2004, varato a fine 2002 dall'allora governo Berlusconi con ministro dell'economia Tremonti, un provvedimento che puntava a incassare 26 miliardi di euro e secondo gli ultimi dati disponibili della Corte dei Conti, pubblicati nel 2012, mancavano ancora 5,2 miliardi. Un miliardo è riuscita a recuperare Equitalia, mancano 4,2 miliardi che gli italiani in questo condono tombale hanno promesso e non hanno pagato nella seconda rata. E allora il secolo ci chiede, i 4 miliardi che mancano sono nelle tasche dei furbetti italiani che hanno aderito al condono tombale, hanno detto pagheremo questa seconda rata, non l'hanno più pagata. Lo Stato che fa? Si chiede il secolo XIX. Guardate che la cifra non è casuale, 4,2 miliardi sono proprio quelli che farebbero scongiurare l'aumento dell'IVA e metterebbero a posto anche altre cose. Perché non si fa? Boh, questa è la domanda che non si capisce, alla quale non c'è risposta. In tutto questo mi ha molto colpito l'intervista a Elsa Fornero, ex ministro del welfare, intervistata da Luca Fornovo sulla Stampa pagina 4, parla di Angela Merkel, fa tante discussioni, tante analisi, eccetera, ma la risposta che mi ha molto colpito è questa. L'incultura maschilista che c'è in Italia, dice la Fornero. Ci siamo concentrati sulle giacche, il look dimesso, i tailleur della Merkel, ma lei non si è fatta intimidire da questa incultura maschilista tipica di questo paese, dice Elsa Fornero. E sentite, a proposito, ricorda la battuta di Berlusconi sulla Merkel? Un vero leader, risponde Fornero, non ha bisogno di e né inclinazione per le battute. E poi ecco la domanda chiave. Perché in Italia le donne non riescono a emergere in politica? Sentite la risposta della Fornero. Possono fare le veline, o andare allo sbaraglio, o esprimere aggressività come polli da combattimento. In Germania fanno davvero politica. Ecco, le donne, secondo Fornero, nella politica italiana fanno le veline, oppure andare allo sbaraglio o esprimere aggressività come polli da combattimento. Ah, non è tanto che ci manca la Merkel, è proprio che il confronto è impietoso. Intanto la politica italiana, Napolitano appunto fa l'ennesimo monito. Non sprechiamo i venti di ripresa. Napolitano che sembra, ieri diceva Corrado Formigli a Piazza Pulita, effettivamente sembra un po' come il preside che bacchetta la scolaresca tutta scapigliata, no? State attenti, state buoni. Non mi raccomando, ragazzini, mi raccomando, fate i bravi. Non sprechiamo questi venti di ripresa, ma la politica fatica a sentirci. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, il premier Enrico Letta dal Canada dice bisogna farsene una ragione del governo delle larghe intese, come rattitola al Sole 24 Ore a pagina 11 l'articolo di Gerardo Pelosi al seguito del premier. Farsi una ragione delle larghe intese, cari italiani, e lo stesso Letta ha fatto un ragionamento come dire anch'io vorrei vincere le elezioni, ma se uno non le vince bisogna farsi una ragione di queste. Tra l'altro, secondo un retroscena di Repubblica firmato Alberto D'Argenio e Carmelo Lopapa in prima pagina, Letta ora è pronta a chiedere una vera e propria verifica di governo, pretende la verifica, sarà il momento del redderazionem, pochi giorni e il premier presenterà un suo contratto ai partiti, contratto è scritto tra virgolette, prendere o lasciare, dentro o fuori, non sto qui a subire il tiro al piccione né da destra né da sinistra, così Enrico Letta vuole blindare la sua maggioranza e pretende un accordo sulla legge di stabilità prima che approdi in Consiglio dei Ministri, così dice Repubblica. Oppure mi faccio da parte. Ma la posizione di Silvio Berlusconi dall'altra parte è su questo terreno. Due volte nell'articolo, tra l'altro, di Repubblica c'è le fibrillazioni del governo, ho fatto fatica a non stracciarlo dopo questa parola. Comunque, il Cavaliere ieri ad Arcore E sono queste soprattutto le fibrillazioni, ecco, l'ho detto due volte anch'io, che fanno temere Enrico Letta. Il Cavaliere ad Arcole ha deciso di, come dire, tenerlo in piedi finché il governo Letta, finché gli è comodo. In tutto questo, mentre la politica, ecco, continua nella rissa, la rissa è anche a sinistra. Renzi ieri ha detto: i dirigenti del PD sono rancorosi, io non sarò mai come loro, mai come loro, e sono dello stesso partito, tanto che Pierluigi Bersani, l'ex segretario del PD, deve intervenire, intervistato da Maria Zegarelli sull'Unità, fa un'intervista: l'accusa contro di me è il colpo numero 102. Si riferisce a cosa? I 101 franchi tiratori che impallinarono Romano Prodi nell'elezione al Quirinale. E beh, dice Bersani, dire che io remo contro il buon esito dell'Assemblea Nazionale del PD, che è un po' l'accusa velata dei renziani, è la 102esima, diciamo il 102esimo tradimento, lo sento così. In questa caotica discussione arrivano verso di me insinuazioni, accuse che mi dipingono come un mestatore, dice Bersani all'Unità. Sono agli antipodi, esattamente. Vorrei dire agli uni e agli altri una cosa: mi si lasci in pace. Ho smesso di fare il segretario, ma non ho smesso di ragionare per la ditta, con le mie idee, ma per la ditta e alla luce del sole. Non accetto che mi si attribuiscano manovre. Questo è difficile, francamente, da sopportare. Così Bersani tuona in questa intervista l'accusa contro di me, il colpo numero 102 sull'Unità. Ebbene, mentre questa politica rissosa si confronta, che farà Berlusconi? Andrà ai servizi sociali? Andrà domani a Porta a Porta? Pare che voglia andare in TV. È tornato falchissimo, secondo la stampa. Intanto manda Barbara Berlusconi questa sera, la figlia, a Ballarò, intervistata da Ballarò. Mentre tutti si chiedono questo, il PD litiga, eccetera, le cose che contano, per esempio, l'Unione Europea domani, sapete cosa farà molto probabilmente, cari italiani? Aprirà una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il ritardo nel pagamento dei rimborsi dei crediti IVA alle imprese. E voilà, l'UE contesta l'Italia sui crediti IVA. Pagina 13 del Sole, Beda Romano e Gianni Trovati, la Commissione Europea dovrebbe decidere domani l'apertura di una procedura di infrazione ai danni dell'Italia sulla questione dei rimborsi dei crediti IVA all'impresa. Tre contestazioni. La prima, i tempi molto lunghi coi quali l'amministrazione fiscale effettua il rimborso dei crediti legati all'IVA. La seconda contestazione, la legge italiana prevede l'obbligo del rimborso del credito IVA entro 4 anni, termine che può essere ridotto se il creditore mette a disposizione dell'amministrazione una cauzione pari all'ammontare del credito. Terza contestazione, la legislazione italiana stabilisce che per importi superiori a 5.164 euro il contribuente possa essere esonerato dal presentare una cauzione. Tutte queste cose vengono violate, secondo l'Unione Europea, procedura di infrazione in arrivo. E intanto si litiga, si litiga, si litiga. Il paragone è un po' impietoso, sono quasi al finale. Il paragone è questo, viene da dirlo: loro hanno la Merkel e noi abbiamo Schettino. L'ex comandante Schettino, che oggi si guadagna tutta una serie di articoli. Schettino al processo, accusa il timoniere, non eseguì l'ordine. In un italiano un po' confuso, forse, cioè confuso non nella sintassi, ma insomma, prima Alessandro Giglioli ce l'ha definita come se fosse una supercazzola, non so se l'avete sentito. Ho detto a destra, a sinistra, data a sinistra, la sinistra, a destra, non si è capito, forse era teso per la testimonianza al processo. Schettino scappa ancora, tutta colpa del timoniere. Sì, sì, anch'io effettivamente stamattina mi sono alzato con un po' di male alla spalla e ho detto: quel farabutto del timoniere me l'avrà slogata nella notte. E siamo al momento della chiusura della rassegna stampa. Manca un minuto e dunque il premio più ambito della rassegna stampa di Radio 24, l'articolo più inutile, scovato a mio insindacabile giudizio, insindacabile. Il premio La Carta Costa oggi va a Libero, soprattutto per il titolo. Ecco, il paragone, appunto, l'avevamo detto, è impietoso, già tra Italia e Germania, su tante cose, la serietà della politica, per esempio. Che ti titola Libero a pagina 6, come titola? Così, testuale. Cosa possiamo chiedere alla culona imbattibile. Ma italiani, ma com'è possibile? Ma com'è possibile un titolo così? Cosa possiamo chiedere alla culona imbattibile a sei colonne? Italiani, reagite, ribellatevi a questo! E ricordatevi, amici di Libero, che anche sebbene solo nei titoli, la carta costa! 24 mattino. Eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan, quando sono le 8:19 minuti. Allora, vi do subito il numero verde per intervenire, cari ascoltatori, 800 24 00 24. Di recente anche il vice ministro all'economia Fassina aveva ribadito che in Italia esiste una evasione di necessità di chi non ce la fa, di chi messo di fronte alla troppa pressione fiscale ha due alternative: o soccombere, chiudere, oppure reagire. Solo che reagire vuol dire in alcuni casi apertamente violare la legge, diventare evasore fiscale. Oggi vogliamo parlare di questo. Esiste un'evasione di necessità, secondo voi, in questo paese, cari italiani? Lo facciamo con due ospiti che commenteranno una storia. I due ospiti sono l'onorevole Giulia Sarti del Movimento 5 Stelle, che saluto. Buongiorno onorevole, benvenuta. Buongiorno a tutti. Saluto anche Bruno Tinti, ex magistrato, firma del Fatto Quotidiano, che ritroviamo con piacere. Buongiorno dottor Tinti, eccoci qua. Buongiorno a lei, buongiorno. La storia invece è di un commerciante che è Roberto Corsi, che saluto. Buongiorno Corsi e benvenuto. Buongiorno, buongiorno Giulia. E lei è di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza. Sì, provincia di Cosenza. E che fa nella vita, commerciante di che cosa? Io sono commerciante di abbigliamento da 26 anni. Di abbigliamento. Lei ha deciso un qualcosa di molto forte. Da quanti giorni lo ha deciso, prima di spiegarci di cosa si tratta? Allora, io ho deciso di sbattere fuori, di cacciare via lo Stato, il ladro, dalla mia attività. Però iniziamo con precisare, cerchiamo di essere chiari, che io non mi reputo assolutamente un evasore fiscale, ma bensì io sto applicando una legittima difesa. Una legittima difesa nei confronti dello, sì, Stato. Cioè lei che cosa fa in concreto? Allora, cerchiamo di far capire che le tasse vanno pagate, ma le tasse, quando diventano un pizzo, allora non si paga più il giusto dovuto, ma bensì si è sotto estorsione. Mm-hmm. E tutti noi siamo sotto estorsione praticamente da parte di questo Stato criminale che sta uccidendo una nazione. Quindi il reato chi è che lo commette? Chi estorce o chi si rifiuta di pagare un pizzo? Questo è il punto. E lei come si rifiuta di pagarlo? Lei ha deciso di prendere il registratore di cassa, quello che batte gli scontrini, e buttarlo fuori dal negozio. Metterlo fuori dal negozio, cioè staccare, toglierlo proprio, disattivarlo. Sì. E da quanti giorni fa questa protesta? 105 giorni. 105 diciamo giorni. Diciamo che questa protesta è iniziata nel mese di marzo. Nel mese di marzo ha raggiunto il clou sui social network. Il 10 giugno io ho ricevuto la visita di Warren Mosler e Paolo Barnard presso il mio esercizio. E chi sono? Mi hanno portato sostegno morale. Paolo Barnard lo conosco come giornalista. Insomma. Sì, mi ha portato sostegno per questa grande idea, perché è l'unica arma che abbiamo in Italia per poterci difendere da questo fisco criminale che già indotto centinaia di padri di famiglia al suicidio. Abbiamo imprenditori distrutti psicologicamente, abbiamo gente che non riesce più a guardare i propri figli negli occhi. Però scusi Roberto Corsi, lei perché dice non mi sento un evasore fiscale? Cioè, dal punto di vista tecnico della legge lei lo è in questo momento, però non si sente moralmente evasore fiscale? Non sono un evasore fiscale perché io ho sempre onorato fino al gennaio 2013 il pagamento delle tasse. Non le ho mai viste tramutate veramente in servizi. Cioè, vale a dire quello che ho detto prima, stiamo subendo un'estorsione, ma la stiamo subendo dipendenti pubblici, privati, imprenditori, commercianti, agricoltori, perché attraverso leggi truffa ci impongono una pressione fiscale impossibile da sostenere. Mm. Senta, i suoi clienti come hanno reagito? Cioè, perché non hanno lo scontrino? Lei è vero che fa anche lo sconto del 21%, cioè sconta l'IVA in pratica sui... Sì, ho scontato un importo pari all'IVA. Hanno reagito benissimo. È perché c'è lo sconto. Ma certo, la gente oggi ha bisogno solo di risparmiare. Hanno reagito benissimo, però guardi Roberto Corsi, lei tra l'altro ha ricevuto ieri, e ci sono state anche polemiche, un po' di solidarietà, molta solidarietà politica, in particolare dall'onorevole Giulia Sarti, che è qui con noi che l'ascolta, e immagino anche qualche critica che adesso sentirà da Bruno Tinti. Però onorevole Sarti, intanto partirei da lei, perché lei ha solidarizzato dicendo in pratica dovremmo tutti fare come Roberto Corsi? Questo è il senso del messaggio, ce lo spieghi, perché ha ricevuto molte critiche, dice, ma come istiga all'evasione fiscale, alla ribellione fiscale? Ma guardate, anche qui in realtà c'è stata una vera e propria contraddizione, perché io in realtà ho condiviso un messaggio presente sul blog di Grillo, in cui appunto veniva raccontata la storia di Roberto Corsi, e l'ho condivisa sulla mia pagina Facebook senza aggiungere minimamente parole. Quella frase era attribuita alla persona che raccontava questa storia sul blog di Beppe Grillo. E io ho praticamente copia e incollato questo post sulla mia pagina Facebook. Detto questo, il punto non è incitare a non pagare le tasse, il punto è che io da parlamentare, come dovrebbero fare tutti i miei colleghi, come dovrebbe fare questo governo, mi sento in qualche modo, ci sentiamo responsabili della situazione che stanno attraversando la maggior parte dei cittadini italiani, e quindi è ovvio che nessuno incita a non pagare le tasse. Ma quando il cittadino arriva ad una situazione come quella che ha descritto Roberto Corsi, e che in realtà è la situazione di larga parte della popolazione, lo Stato deve farsi carico di queste problematiche, e quindi è ovvio che Roberto Corsi molto probabilmente incorrerà in sanzioni, e sicuramente dovrà sanare la sua posizione prima o poi, però noi non possiamo continuamente fare spallucce davanti a quello che succede nel nostro paese. Cioè lei in pratica dice, visto che la politica è impotente, non è impotente, perché è latitante, questo è il punto. La politica avrebbe gli strumenti per dare più sostegno al cittadino, e anche dall'altra parte per combattere l'evasione fiscale, ma se non si fa nulla, cioè se non si combatte l'evasione fiscale da una parte, ma contemporaneamente non si agevolano i cittadini con delle misure precise per sostenerli, è impossibile che i cittadini riescano a cavarsela, è impossibile. Questo però, mi scusi onorevole Sarti, è un punto che Bruno Tinti, che vorrei coinvolge, ha spesso trattato anche in questa trasmissione, dottor Tinti, cioè a dire non è che siccome lo Stato, in questo caso per l'incapacità o la latitanza, come la definisce l'onorevole Sarti, della politica, non è in grado di risolvere le situazioni come quella di Roberto Corsi, non per questo ci autorizza tutto ciò a fare ribellioni fiscali come sta facendo il commerciante di Montalto Uffugo. Lei, Bruno Tinti, si sente di dire che cosa a Roberto Corsi, che l'ascolta, e agli ascoltatori ovviamente? Guardi, io sono arrabbiatissimo, veramente. Trovo che persone come Fassina, che lei ha citato all'inizio, l'onorevole Sarti adesso, fanno un'opera di distruzione dei principi di legalità dello Stato gravissima. E oltretutto parlano senza sapere quello che dicono. La latitanza della politica, adesso chi legge i miei articoli sa che è difficile trovare una posizione più critica della mia nei confronti dell'attuale politica, ma che l'Italia sia stata e sia ancora in gravissime difficoltà economiche, che sia stata sull'orlo della bancarotta, che soldi non ce n'è, non lo può negare nessuno. È inutile continuare a far finta che il paese non sia in uno stato di decozione fallimentare. Allora, andare continuamente a giustificare dei comportamenti illegali, illeciti, dei reati, attribuendo alla politica una presunta incapacità di far fronte ai bisogni dei cittadini, sciocco, come dire, criminale. Ci si rende complice di questi delinquenti. La politica sarà anche incapace, ma di fatto soldi non ce n'è. Ma mi scusi, Roberto Corsi lei lo definirebbe un delinquente? Accidenti, se è un delinquente. Io sono un dipendente statale, per esempio, ho delle gravissime difficoltà in casa, non ho, ho i bambini, sto facendo un esempio naturalmente, ho i bambini malati, i soldi che mi dà lo Stato non mi bastano assolutamente a far fronte alle mie difficoltà. Come faccio? Le tasse me le prendono quando mi pagano, io non posso evadere, non posso fare niente. Il signor Corsi bellamente che cosa fa? Scarica sulla collettività che paga anche i suoi servizi. Sì. Le sue necessità, si sente anche un eroe. Eroe non lo so, però prima dell'onorevole Sarti e prima della pubblicità, Roberto Corsi vuole replicare, insomma, Bruno Tinti, che è un magistrato di carriera, è stato per tanti anni magistrato, si è occupato di questi problemi, problematiche tributarie, problematiche fiscali, insomma, non esita a definirla delinquente come comportamento, Corsi. Ma io non accetto questo termine, non accetto questo termine perché c'è una responsabilità politica. Perché certamente se si vuole combattere l'evasione fiscale bisogna trovare le condizioni, e per trovare le condizioni spetta alla politica trovare però nell'attesa di questa risposta, dice Bruno Tinti, lei scarica sulla collettività il mancato pagamento di tasse in questo momento, però lei usufruisce dei servizi, che ne so, gli ospedali. Quali servizi? Mio figlio ha 7 anni, paga tutto, sto pagando tutto. Sì, però sta pagando come tutti gli italiani. Non so, gli ospedali della Calabria, magari lei può dire, non saranno. Venite a vedere gli ospedali. Lo so, infatti della stavo dicendo, non saranno un modello di eccellenza rispetto magari ad alcuni ospedali che abbiamo in Lombardia, io le parlo da Milano, però sono pagati in questo momento non da lei, ma dai suoi concittadini. Da lei no. Guardi, questo è un concetto veramente sbagliato. Io sono una persona che ha pagato le tasse fino a gennaio 2013. Oggi mi trovo in uno stato di necessità perché sono vessato da uno stato criminale assassino che non riesce a riportare dignità alla propria cittadinanza. Siamo disperati, imprenditori, commercianti, agricoltori, padri di famiglia, non riusciamo più. Cosa dobbiamo fare? Non siamo gente che possiamo scendere in piazza e farci massacrare. Non abbiamo un'arma, l'unica è la protesta fiscale. Ed è una protesta che effettivamente sta avendo efficacia. Allora facciamo così, ci fermiamo per la pubblicità, riparto dall'onorevole Giulia Sarti, perché giustamente è stata tirata anche molto pesantemente in ballo con giudizi molto duri da Bruno Tinti. Ripartiamo da qui con la storia di Roberto Corsi, commerciante che dice: io da 105 giorni mi rifiuto di fare lo scontrino e pagare quindi le tasse. Per Bruno Tinti è un atteggiamento da delinquente. Per l'onorevole Giulia Sarti del Movimento 5 Stelle, da cui ripartiamo, insomma, è questa politica latitante che deve dare risposte e non può fare spallucce di fronte a questi casi. 24 eccoci qui alle 8:37 minuti. Allora, una domanda su tutti: stiamo raccontando la storia di Roberto Corsi, che da 105 giorni, imprenditore a Montaltuffugo in provincia di Cosenza, vende abbigliamento, dice: io non pago più lo scontrino perché è lo Stato ladro che mi estorce con queste tasse un pizzo e io sono in stato di necessità. Con noi ci sono Bruno Tinti e l'onorevole Sarti, alla quale do la parola. Onorevole, allora, ha sentito, Bruno Tinti ha definito un appoggio a un delinquente, di fatto, un'incitazione a, come dire, a compiere dei reati veri e propri, quello che lei ha fatto, anche solo una solidarietà su Facebook o un ribattere quello che ha detto Roberto Corsi? No, io penso altro, la solidarietà non significa condividere un gesto e incitare tutti a fare quel gesto, il fatto di condividere una situazione come quella di Corsi è prendersi carico di un problema che esiste. Il leitmotiv sembra sempre essere, come ripeteva anche il dottor Tinti, i soldi non ci sono. Bene, io penso però che davanti a una situazione di questo genere ci siano delle precise scelte che si possono fare, che un governo stesso può fare. non è vero che i soldi, come al solito, non ci sono da nessuna parte e non si può fare nulla, perché è un vaso di Pandora questo paese, basterebbe aggredire e partire perlomeno dall'aggredire tutti i veri sprechi che ci sono, dall'eseguire per esempio una lotta ai grandi fenomeni di corruzione che abbiamo, e di sicuro non si risanerebbe totalmente un bilancio dello Stato, ma quello che dico io è che la politica deve dare l'esempio al cittadino. Se il cittadino guarda i suoi rappresentanti e sa che ci sono delle disparità di trattamento fortissime, che non c'è una lotta vera ai grandi evasori e che si va continuamente a prendersela con i contribuenti o alzando le tasse o prendendoli in giro, come è stato sulla questione della prima rata dell'IMU, è normale che il cittadino non voglia restare impotente di fronte a queste situazioni. Noi non dobbiamo incitare all'evasione, ma dobbiamo però farci carico di queste situazioni, questo io dico. Dice e soprattutto cioè tanti sprechi che ci sono, dagli F-35 ad opere inutili come la TAV. Io guardi, quest'estate noi abbiamo denunciato, soltanto per fare un esempio molto stupido, i costi della Camera dei Deputati, che sembrano veramente una cavolata, ma il luogo deputato a approvare leggi e a scrivere leggi per questo paese è esso stesso fonte di immensi sprechi. Queste secondo me sono cose scandalose, perché è quello che io dico, cioè se noi dobbiamo dare l'esempio, ma perché questo governo può farsi carico di scelte differenti? Ma è chiaro, lei punta su questo aspetto, cioè la politica è la prima a non dare il buon esempio e quindi dà, come dire, il pretesto anche a fare questo tipo di ribellioni. Prima di sentire e Bruno Tinti, dobbiamo sollecitare, ma certo, fare scelte diverse, però è quello che noi facciamo ogni giorno. È il dato di fatto che per Bruno Tinti questo è un atteggiamento che non va bene. Però sentiamo prima di Bruno Tinti e Roberto Corsi anche due ascoltatori, se sono concisi, vi prego. Gabrio da Perugia, buongiorno Gabrio, buongiorno. Dottore, buongiorno a lei e grazie che mi ha dato questa possibilità. Sì, però deve spegnere la radio, però, perché... Ma è spenta la radio. Ecco, benissimo, dica. Premetto che io sono un dipendente, per cui diciamo tirerei la zappa sui miei piedi, come si dice a Perugia. Però volevo farle una domanda a lei e ai suoi ospiti. Teoricamente le tasse a che cosa dovrebbero servire su un paese civile? Vabbè, a pagare gli ospedali, i servizi, lo sappiamo, no? Le scuole. E allora, se io penso che le mie tasse, parlo da parte di tutti, vanno a far fare una cena a Fiorito, a far comprare dei diamanti alla Lega, a far comprare le note, del PD e quant'altro, allora dico a quella Iatollah che ha intervenuto prima, che dice che non sono tutti criminali, no? Facesse un esame di coscienza prima, non mi ricordo il nome. Chi è l'Ayatollah? Il magistrato Bruno Tinti? Certo, loro la bocca della verità e si permettono di dare giudizi, quello è criminale e l'altro è criminale. Sì. Ma pensi un po', gli dica a questo signore di dare del criminale a chi spreca, sperpera e fa cattivo uso dei soldi. Va bene, insomma, allora, è molto... dottore, se io fossi signore... commerciante, artigiano, piccolo imprenditore, qualcosa, un libero professionista e non un dipendente, se permette, gli dice al dottor Tinti, che l'ascolta. A prendere 30.000 euro per una cena ci vado prima io e poi se mi restano i soldi li do a Fiorito. Va bene, grazie Gabriele, si è spiegato bene. Bruno Tinti vuole rispondere, così prima di andare all'altro ascoltatore. No, rispondere a uno che dice queste cose non ha senso. Qui si sta dicendo che siccome ci sono purtroppo moltissimi fenomeni di criminalità politica e anche di criminalità ordinaria, io mi sento autorizzato a fare altrettanto. Ma non è solo questo. Una protesta civile. No, mi scusi, però Bruno Tinti, non è solo questo. Cioè, il signor Roberto Corsi, che è qui, che ci mette un nome, un cognome e una faccia, magari pagherà anche per questa sua battaglia fatta. È sicuro. E invece tutti quelli che rubano in Italia che non pagano. Cioè, dottor Milan, ma che discorso è? Siccome tutti gli altri rubano, posso rubare anche io. Ma è un atteggiamento puerile. Ma un conto è rubare in maniera losca. Un conto è... Non vede in quella di Roberto Corsi, se non altro, una battaglia coraggiosa, la metta poi come vuole. Dottor Milan, mi scusi tanto, sa qual è che la cosa che mi preoccupa tantissimo? Che perfino lei adesso ha detto, ma non è rubare in maniera losca. Questo è un problema culturale in Italia, prima ancora che legale. Qui tutti sono convinti, e c'è tante persone, ci si è messo anche lei adesso, che avvalorano questa loro convinzione che non pagare le tasse non sia un reato, che non sia nemmeno un fatto grave. Ma questo assolutamente no. Però che deve fare Roberto Corsi? Deve soccombere? Senta, io avevo una segretaria che stava a stipendio, arrivava a 1100 euro al mese, che aveva una figlia malata, il marito l'aveva lasciato e periodicamente in ufficio si facevano le collette. Che cosa doveva fare questa signora? Poteva o rubare o prostituirsi, perché era pure carina. Allora, dobbiamo dire che faceva bene ad andare a rubare? Non mi permetto di dire se faceva bene o male a prostituirsi. Ovviamente no. Non si può pensare di risolvere i propri problemi accettando l'illegalità, perché poi una volta che si accetta l'illegalità sulle tasse, la si accetta su tutto. Va bene, ha sentito Corsi, ha sentito, insomma, questo è il punto di vista di Tinti anche. Io non voglio assolutamente giustificare, semplicemente anche un ascoltatore ci ha scritto dicendo: Roberto Corsi pagherà, immagino, per questa sua battaglia, perché lei ha un nome, un cognome, un indirizzo, il fisco sarà venuto a cercarla, Corsi, o no? Certo. E che gli ha detto lei a quelli della Guardia di Finanza, che dicono lei lo scontrino? Fanno il proprio dovere, non stiamo lì a scontrarci e a fare la guerra tra poveri, perché l'estorsione non la subisce soltanto Roberto Corsi, come ho detto prima, ma basta osservare le trattenute che vengono effettuate anche a un operatore della Guardia di Finanza, a un semplice carabiniere. Queste tasse praticamente non vengono mai tramutate in servizi, ma a me non è più il punto di non riuscire a pagare le tasse, è che io sono di fronte alla scelta se devo dare da mangiare alla mia famiglia o pagare questo pizzo allo Stato. Io vorrei essere messo nelle condizioni di poter pagare. Dov'è lo Stato? In un altro paese civile e democratico si dà aiuto alle aziende quando si invoca uno stato di necessità. Ma ha sentito, ha sentito che Bruno Tinti dice come la segretaria che era in difficoltà si faceva la colletta nello studio. Magari tutti non sono neanche nella situazione di poter godere di questo privilegio, insomma, di colleghi o di persone che fanno una colletta per qualcun altro. Lei si è chiesto a dire: forse è giusto che io chiuda se non ce la faccio? Ma io potrei anche chiudere, ma come faccio a dare da mangiare ai miei figli? Sto riuscendo appena appena a dare da mangiare ai miei figli grazie alle aziende che mi danno la fiducia. No, dico come alternativa. Dopo anni di duro lavoro e sacrificio. Dico come alternativa, voglio dire, un'alternativa nel senso, invece che fare questa protesta, che comunque è una protesta che ha delle implicazioni penali, chiudere purtroppo, non lo dico a cuor leggero, purtroppo, come hanno fatto anche tanti altri imprenditori. Ma cosa faccio io? Io posso andare a chiudere, ma lo Stato si preoccupa di questo cittadino onesto, perché mi reputo un cittadino onesto, sempre pagato le tasse, di trovarmi una soluzione alla mia sopravvivenza? E questa è una domanda legittima alla politica. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Dottor Tinti, qualcuno ci chiede: poteva aumentare lo stipendio alla segretaria? Ma credo che fosse una segretaria pagata dallo Stato, no? Era la segretaria del Ministero della Giustizia. Specifichiamolo, perché qualcuno subito dice poteva aumentare lo stipendio, ma non era uno studio privato, era una segretaria pagata, dipendente pubblica, insomma. Eccoci qui alle 8:49 minuti, vorrei sentire un ascoltatore, Fabio da Reggio Emilia. Buongiorno Fabio. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Io volevo dire questo: non concordo con la protesta del signor Corsi, dispiace ovviamente che una famiglia, un imprenditore possa essere in difficoltà, ma non credo e concordo in questo punto col dottor Tinti che non pagare le tasse o fare una protesta in questa maniera, cioè anche se può essere vista come una protesta fiscale, sia un qualcosa di illecito, perché se allora tutti facessimo nella stessa maniera, tutti i commercianti che oggi sono in difficoltà e che comunque si sobbarcano quello che può essere la pressione fiscale, lo Stato andrebbe gambe all'aria. Sì, e vorrei dire un'altra cosa invece, che sì, posso concordare con, mi scusi, non mi ricordo il nome dell'esponente del movimento, l'onorevole Sarti, Giulia Sarti. Con l'onorevole Sarti, che sì, è vero, c'è uno Stato che insomma è inefficiente, non impotente, però io vorrei anche sentire qualche proposta concreta, perché sì, grazie, ecco, si deve combattere, è interessante, no, no, no, ma infatti è interessante. Onorevole Sarti, non mi dica che però le dice ma siamo contro il sistema, vogliamo usare la, la priscatola, ma non ce lo fanno usare. Che cosa propone lei? Fatto, noi veniamo sempre individuati, no, come semplicemente il movimento di protesta, quando in realtà basta dare un'occhiata, adesso abbiamo anche i siti della Camera e del Senato della Repubblica Italiana per vedere quante proposte di legge vengono depositate da parte nostra, quante battaglie facciamo, quanti emendamenti, che sono le modifiche che si possono fare ai decreti legge, alle proposte di legge che vengono approvate, noi depositiamo, perché siamo sempre stati propositivi. Davanti a tutta questa situazione, noi in campagna elettorale dicevamo facciamo questa grossa provocazione, ci vorrebbe l'abolizione di Equitalia, il punto è rivedere di sicuro i sistemi della riscossione. Sì. Poi dicevamo ma perché non iniziamo ad introdurre un reddito di cittadinanza, che per carità non è la cura a tutti i mali, ma almeno è un inizio. Tutti sembravano dire no, è una cosa assurda, poi si va a vedere in tutti i paesi europei e delle misure simili al reddito di cittadinanza. Bisogna vedere se sostenibile con i conti pubblici, con i nostri conti pubblici, quanto è sostenibile una cosa del genere? È sostenibile se, come dicevo prima, si vanno poi dall'altra parte a trovare delle coperture finanziarie e ad aggredire gli sprechi veri che abbiamo. Questo è il punto, perché se, come ho detto prima, ci fosse una lotta seria a un fenomeno importante e gravissimo come la corruzione, di cui ormai non si parla nemmeno più perché c'è stata questa legge anticorruzione del governo Monti, che in realtà è stata una briciola in mezzo al deserto, e l'introduzione di un reato importante come l'autoriciclaggio, il ripristino del reato di falso in bilancio, la revisione dell'istituto della prescrizione dei reati, tutti temi penso molto cari anche al dottor Tinti, che come magistrato insomma sì, saprà benissimo qual è la situazione della giustizia italiana. Io infatti sono una persona che condivide, come diceva lui, il fatto che in questo paese si è persa da tempo la cultura della legalità, e questo è vero. Ma lui però dice che anche perché persone come lei, diciamo, mostrano solidarietà a gente come Roberto Corsi che viola la legge. Io questo non condivido, perché la nostra è quella che ho portato io, come può averla portata Beppe Grillo, tanti altri, non è una solidarietà che condivide il gesto. Perché come abbiamo detto, il dottor Corsi prima o poi pagherà sanerà la sua situazione. Ma il punto è che cosa deve fare un cittadino per riuscire ad attirare l'attenzione di non solo di una politica latitante, ma anche dei media, cioè che cosa devono fare le persone per riuscire a far capire che a far sentire, sì, certo, ad andare avanti. Corsi, le chiedo questo, glielo richiedo, non ho capito, Corsi, che dice? Per attirare l'attenzione della classe politica un cittadino non gli resta che suicidarsi, come ha fatto Campaniello davanti all'agenzia di Equitalia a Bologna, no, e per tanti altri di tutta però, Italia. Però l'unica arma che abbiamo. No, ahimè, cioè sono tante le persone che hanno fatto questo gesto, però non incitiamo a farlo, cioè non è quella la soluzione, Corsi. E io sono qui allora ad applicare, come ho detto, una legittima difesa, una tutela, attirare l'attenzione verso questa classe politica che dia una risposta a tutti gli imprenditori, a tutti i padri di famiglia che stanno però lottando. Mi dica, siccome devo chiudere, ho 20 secondi, mi dica, cioè alla Guardia di Finanza che cosa risponde? Cioè le hanno contestato qualcosa? Le è arrivata qualche multa? Le è arrivato qualche... Fanno il proprio dovere e finirà nelle sedi opportune. Non mi reputo di certo un criminale, come sono stato definito, diciamo delinquente. Non mi sento assolutamente tale. Va bene, però temo che dovrà pagare dal punto di vista, insomma, del fisco che chiederà conto di questa protesta. Comunque vi ringrazio e seguiremo questa vicenda. Ringrazio Bruno Tinti, l'onorevole Giulia Sarti del Movimento 5 Stelle e Roberto Corsi, che ci ha raccontato la sua storia. Torneremo a occuparci, ripeto, imprenditore di Montalto Fugo in provincia di Cosenza. Potete riascoltare tutto sul sito radio24.it. E da Miriam Lucchetti, Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi e l'alpino Peter Bescapè, regia, vi diamo appuntamento a domattina 6:30. Il nostro Parlamento, la Camera che si accapiglia sulla riforma costituzionale e il Senato che si accapiglia sulla decadenza di Berlusconi, dovrebbero stare su Marte, perché non hanno la più pallida idea di che cosa sia la vita dei cittadini. E quando dicono la stabilità del governo per il popolo, non sanno di quale popolo stanno parlando. Dovrebbero andare tutti una settimana a lavorare